2024 2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 10 novembre 2012. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi anche durante la trasmissione, è molto semplice: 2024@radio24.it. Noto che molte persone stanno cominciando, già da un po' di tempo, a utilizzare anche Twitter o Facebook per i messaggi. Tendenzialmente non rispondo, rispondo via mail invece. La mail sta cadendo in disuso anche per ovvi motivi. Uno si trova già nella piattaforma di Facebook e utilizza quella piattaforma per comunicare, ma rispondiamo via mail. A volte rispondo anche via Twitter o via Facebook. Ho citato due altre modalità per collegarsi con noi, quindi Facebook e Twitter. Se volete però parlare con noi durante la nostra trasmissione, anzi noi preferiamo sentire la vostra voce, il nostro numero verde è 800240024, gli sms 349-238-6666. Ricorderete la campagna vogliamotrasparenza.it lanciata per chiedere che le nomine delle autorità indipendenti come l'AGCOM, l'Authority per la Privacy, la RAI, vengano fatte sulla base di competenze, sulla base del merito, invece che sulla base di spartizioni politiche. E alcuni diranno, hai voglia. Allora, come è andata a finire la nomina dei commissari dell'AGCOM è noto. Questa settimana Open Media Coalition, ed è direi la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, ha presentato un ricorso contro queste nomine chiedendo che i giudici amministrativi accertino se la Camera e il Senato abbiano proceduto alle nomine in maniera legittima e se il procedimento amministrativo seguito sia idoneo a garantire l'adeguata indipendenza. Allora, il ricorso è stato firmato da alcune associazioni, la prima è appunto Open Media Coalition, poi c'è Agora Digitale, l'Associazione Nazionale Stampa Online, Articolo 21, la Federazione dei Media Digitali Indipendenti, Società Pannunzio per la Libertà di Informazione e il senatore Bellisario. Altra notizia interessante: ieri è stato presentato il Comitato Digitale per Matteo Renzi, un gruppo di persone esperte a vario titolo della rete internet e dell'economia digitale che ritiene che Renzi sia l'unico che possa contribuire a fare crescere questo settore, che abbiamo detto più volte essere fondamentale per l'economia del paese. Di questo comitato fanno parte professionisti indipendenti, e su questo non ci sono dubbi, che hanno segnato sicuramente la storia di internet in Italia, sono persone competenti: Paolo Barberis, Frida Brioschi, Angelo Falchetti, Peter Kruger, Salvo Mizzi, Stefano Quintarelli, Laila Pavone, Eugenio Prosperetti e Francesco Sacco. Potremmo spendere alcune parole per ognuno per dimostrare, ma molti sono anche conosciuti, che sono persone che meritano sicuramente la descrizione che abbiamo fatto, cioè che hanno segnato una parte della storia di internet in Italia. Dunque, parliamo di TIM, che ha lanciato, la settimana scorsa abbiamo parlato di Tre, abbiamo parlato precedentemente anche di Vodafone. Allora, devo dire che la presentazione, il lancio di Tre del 4G è un po' così, solo di immagine, che perché è stato lanciato in un piccolo paese di 1900 abitanti, invece Vodafone e TIM hanno lanciato almeno in città importanti. Allora, TIM è partita il 7 di novembre da Milano, Torino, Roma e Napoli. Telecom ha detto questa settimana che verrà coperto il 40% della popolazione entro il 2014 e il 10% entro dicembre 2013, e si dovrebbe arrivare in 20 città. E alcuni giustamente si sono un po' sorpresi e anche hanno espresso molta delusione, perché hanno detto speravamo che il 4G arrivasse più velocemente in tutta la nazione. Invece 40% della popolazione entro il 2014 non è tantissimo. Allora, sicuramente la costruzione di una nuova rete costa un sacco di soldi. Gli operatori hanno già speso per acquistare le licenze, quindi questo è un primo problema. C'è un dibattito di cui ancora non abbiamo parlato, ma forse è il caso di farvi ascoltare una voce che ha lanciato una idea. Allora, il dibattito è: oltre a parlare della costruzione di un network in fibra ottica nazionale per portare internet in larga banda in tutto il paese, potremmo fare la stessa cosa, cioè metterci tutti assieme, noi operatori di telefonia mobile, per costruire una unica infrastruttura di telefonia mobile. Quindi mettiamo insieme le antenne, i luoghi dove ci sono le antenne, le frequenze, quindi curiamo tutta questa infrastruttura, naturalmente spendiamo meno e in questo modo potremmo accelerare la diffusione anche del 4G. Allora l'idea è stata lanciata qualche settimana fa da Massimo Ibarra, che è l'amministratore delegato di Wind. Sul 4G è quello di anche lì costruire una piattaforma dove gli operatori mettono a disposizione tutti gli asset che di fatti hanno già, e dove il rollout per quanto riguarda la rete può essere molto più efficiente ed efficace rispetto a quella che ci sarebbe se tutti facessero le cose da soli, dove mettono in comune le frequenze di cui oggi dispongono e sulle quali hanno investito anche importanti e ingenti risorse. Questa ipotesi che lei dice del far confluire tutti gli asset degli operatori mobili in un'unica infrastruttura è un'ipotesi di scuola o esistono? Quando si parla di tutti gli asset si parlano, diciamo, di asset prevalenti e funzionali a quel tipo di obiettivo. Le antenne? Beh, chiaramente quando si parla del mobile si parla sicuramente delle antenne. C'è una discussione in atto sul mobile? Sul mobile credo che ci sia una consapevolezza totale da parte di tutti i soggetti. Discussioni in atto in questo momento non ce ne sono. In altri paesi invece queste discussioni sono in atto, ce ne sono e si stanno anche implementando. Se proviamo ad alzarci un attimo, alla fine la competizione non è che si fa a questo punto solo sulla performance della rete, che tutti più o meno siamo in grado di garantire. Se parliamo del mobile, abbiamo tutti i protagonisti di questo settore in Italia, un numero ingente di antenne, siamo tutti in grado di soddisfare gran parte delle esigenze, facciamo più o meno tutti gli stessi investimenti, per cui non è quello l'elemento differenziante. L'elemento differenziante è un altro, è come gestisco il customer care, come veicolo la mia offerta sui punti vendita, qual è il modello di business che decido di adottare per quanto riguarda la mia offerta. Ecco, lì la concorrenza deve esserci, deve essere garantita, ma il resto è di fatto una commodity, una bellissima commodity, ma una commodity. E questo potrebbe contribuire ad accelerare gli investimenti e quindi la diffusione anche delle reti mobili 4G in modo particolare. Cambiamo argomento, parliamo di infrastruttura e parliamo di quanto è performante la rete internet in Italia e nel mondo. Allora, c'è una ricerca che viene fatta trimestralmente, interessante, che si chiama The State of the Internet di Akamai. Ne abbiamo parlato con Alessandro Livrea di Akamai, partendo però da un punto. Chi è Akamai, che cosa fa e perché i dati che vengono diffusi da questa azienda sono affidabili e interessanti? Ma dunque, Akamai possiede la rete distribuita cloud più grande al mondo, sono oltre 120.000 macchine sparse in oltre 72 paesi e di fatto il nostro core business è quello di consegnare i contenuti dei nostri clienti in modo che siano qualitativamente fruibili e scalabili all'infinito. Quando parliamo di macchine parliamo di server, di grandi server. Computer. Corretto. Che sono distribuiti lungo la rete, quindi anche in Italia, in alcuni punti di internet, presso gli operatori di telecomunicazioni, voi avete le vostre macchine, che sostanzialmente fanno cosa? Cioè, quando io clicco per vedere un contenuto, leggere un testo, oppure vedere delle foto, vedere un video, probabilmente, anzi molto probabilmente, la maggior parte di questi contenuti non arrivano dall'operatore che me li eroga, o meglio, in primis certo, ma diciamo l'ultimo miglio lo fanno le vostre macchine. Sì, diciamo che non è proprio un miglio, un po' di più però. I dati risiedono principalmente all'interno dell'origin dei nostri clienti. Più ci si allontana da questi, più il segnale internet degrada. Quello che di fatto facciamo è di avvicinare questi contenuti il più possibile agli utenti finali. Sì, questo indipendentemente dallo stato della rete. In generale in tutti i paesi del mondo questo funziona, anche in Giappone, dove ci sono megabits e gigabits a disposizione, o in Corea, eccetera, eccetera. Questa è un'esigenza che ormai tutti gli operatori hanno scoperto da tempo, quindi non stiamo dicendo cose nuove agli addetti ai lavori, però è bene sapere che la rete internet funziona anche in questo modo, con macchine, aziende che accelerano la distribuzione dei contenuti. Perché voi fate questa misurazione trimestrale della rete internet e soprattutto perché ritenete voi, ma anche insomma gli addetti ai lavori ritengono che questa misurazione sia molto efficace e sia un buon indicatore rispetto alle statistiche che vengono fatte, che magari anche 2024 commentiamo mese dopo mese? Ma per varie ragioni. Innanzitutto perché ne abbiamo la possibilità. Dalle nostre macchine passa fino al 30% del traffico web mondiale. per cui quello che riusciamo a rilevare sono dati concreti e non frutto di ricerche. Inoltre è comunque interessante sapere quale sia lo stato di internet, perché ricordiamolo, in realtà internet fa punti di PIL in sostanza. C'era un bello studio del 2010 in cui si vedeva che fondamentalmente internet in Italia valeva circa un 2% del PIL, ma a più basso livello si sa che le aziende che sono digitalizzate producono di più, assumono di più, sono più produttive, esatto, più efficienti, esatto. Quindi questo è un punto, cioè guardare lo sviluppo della rete internet significa guardare in qualche modo anche lo sviluppo di un paese. A proposito di numeri, cominciamo a guardare un po' di numeri di The State of the Internet, l'ultima edizione che voi avete fatto. Partendo da un dato classico che viene utilizzato per parlare di internet in un paese, cioè la penetrazione della rete internet, quanto è diffusa, mi verrebbe da dire, popolare internet in Italia? Poi magari facciamo anche un confronto con altri paesi. Ma dunque, internet è molto popolare in Italia. La verità vera però è che siamo indietro rispetto a tutti i nostri, diciamo, cugini europei. Siamo dietro Germania, UK, Francia e Spagna. Un dato abbastanza allarmante è che quella che noi riteniamo una connessione in banda larga, quindi superiore ai 4 megabits per secondo, diciamo le connessioni che sono state effettuate alle nostre macchine nell'ultimo quarter sono calate del 14%, a fronte invece di una crescita delle connessioni in banda larga veloce, superiore ai 10 megabit per secondo, del solo 2,1%. Perché succede questo? Non è facile trovare una risposta. Perché è una notizia abbastanza, oltre che allarmante, non so in quanti sanno che le connessioni in banda larga di medio taglio, diciamo così, ma per molti italiani di grande taglio, stanno diminuendo. Cioè probabilmente anche molti addetti ai lavori ti direbbero: beh, le connessioni in banda larga gradualmente comunque aumentano. Non è proprio così secondo i vostri dati? No, non c'è ancora una proporzionalità. E questo, a mio parere, indica un progressivo degrado o perlomeno un tasso di rinnovo che non è sufficiente da parte della nostra infrastruttura. L'infrastruttura italiana comincia a essere vecchia e gli investimenti sicuramente non ancora sufficienti a coprire quello che è lo sviluppo di internet. Teniamo anche conto che invece l'Italia è stato uno dei paesi che ha registrato il più grande incremento di IP anno su anno. Significa che gli italiani si connettono sempre di più, ma purtroppo hanno, come dire, a disposizione un'infrastruttura obsoleta. Sì, ampliamo un po' la prospettiva e guardiamo anche alle classifiche che voi avete realizzato, anche al di là dei nostri confini europei. Quali sono i paesi con velocità maggiori per quanto riguarda i collegamenti ad internet? La Corea del Sud è il primo paese al mondo. Questo fondamentalmente è dovuto ad un impegno che è tutto politico. In realtà il governo della Corea del Sud già si proponeva di arrivare a un 80% di penetrazione internet superiore a 2 megabit per secondo nel 2005. Cosa che è riuscita a fare. Adesso il prossimo step è quello di servire la maggior parte della popolazione con connessioni superiori al gigabit, che è una misura enorme. È incredibile. Oggi a quanto sono arrivati? Hanno una velocità media di 14 megabit per secondo contro una velocità media mondiale di 3 megabit per secondo. Ricordiamo la nostra di velocità media. Siamo a 4 megabit per secondo. Di velocità media. Che non è nemmeno malissimo, essendo una velocità media. Sì, non è neanche malissimo, però fondamentalmente ci dovremmo confrontare, come dire, con i nostri cugini. I nostri cugini sono tutti sistematicamente più veloci. Tipo, facciamo degli esempi anche qua, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, che velocità media sono? Ma dunque abbiamo fondamentalmente l'Austria, ad esempio, con una velocità media di 6,3 megabit per secondo, la Repubblica Ceca di 7,2 megabit per secondo, la Danimarca di 6,7 per secondo. Germania e Francia? Perché io sono sempre dell'idea che i confronti è meglio farli con quelli che hanno delle dimensioni analoghe alle nostre. L'Austria è troppo facile, la Lombardia è quasi più grande. Quindi, però... La Germania è 5,8 megabit per secondo. La Spagna abbiamo un 4,6 megabit per secondo. Ci supera di poco. La Francia? La Francia ce l'abbiamo a 4,6 per secondo ancora. E di poco ci supera. La Gran Bretagna, che è interessante, un paese che investe molto, crede molto nelle infrastrutture internet. 5,7. Ci sono dei dati anche sui picchi massimi? In Italia, ad esempio, quanto riusciamo ad avere? In Italia abbiamo una media di picchi praticamente di 17,4 megabit per secondo. E questo vuol dire che la misurazione è fatta soprattutto nelle aree dove c'è la fibra ottica, immagino. È corretto. Sì. Corretto. Cioè il picco vuol dire mediamente le connessioni ad internet possono raggiungere questi picchi, che naturalmente sono fatti dove c'è molta banda. Corretto. Mm. Gli altri paesi? Sono curioso. Tutti molto meglio. La Svizzera è in testa con 29,9 megabit per secondo, quasi il doppio. Sì. L'Inghilterra con 24,5 megabit per secondo, dopodiché se vogliamo vedere la Francia di 18,3 megabit per secondo. Beh, alcuni potrebbero dire abbiamo messo il dito nella piaga nuovamente. Chiudiamo questa pagina anche perché questo rapporto è molto lungo, molto complesso e potremmo dedicare molto tempo all'analisi di questi numeri, ma quello che vi abbiamo raccontato è il concetto fondamentale. Ci risentiamo tra circa un minuto. 2024. La Polizia delle Comunicazioni italiana ha arrestato il titolare di un'agenzia di recupero crediti per accesso abusivo ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate, quindi queste cose accadono, ci sono i cattivi su internet, ci sono anche i buoni. L'uomo usava la tecnologia per mascherare gli accessi, utilizzava schede SIM intestate a cittadini extracomunitari, ma anche reti Wi-Fi non protette, quindi attenzione, proteggete le vostre reti Wi-Fi. Ma era riuscito anche ad avere la fiducia di funzionari di piccoli comuni, spacciandosi per un tecnico dell'agenzia, quindi vale sempre anche il comportamento, quindi la sicurezza non è fatta solo di tecnologia ma anche di comportamenti. Queste indagini sono state eseguite da personale del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Secondo i dati pubblicati da Netcom Human Highway, sono 12,3 milioni gli italiani che hanno fatto un acquisto online negli ultimi tre mesi, circa il 43% degli utenti della rete internet in Italia. Che cosa si compra? Al primo posto i libri, 16,5%, l'abbigliamento 12%, biglietti di viaggio 11%, l'abbigliamento è quello che cresce di più e sale del 33% rispetto ad un anno fa, spinto soprattutto dalla convenienza che si trova nei negozi digitali. Gartner ha diffuso alcune previsioni sulle vendite di quelli che sono stati definiti smart devices, ovvero l'insieme di smartphone e tablet. Nel 2012 le vendite saliranno a 821 milioni e supereranno il miliardo nel 2013, raggiungendo una quota del 70% di tutti i dispositivi mobili venduti. Sono numeri interessanti perché dietro a questi smart device ci sono consumatori e quindi un nuovo mercato che si apre. Molti di questi smart device sono smartphone e molti sono prodotti da Samsung ed Apple. Allora, secondo Strategy Analytics, il Galaxy S3 avrebbe raggiunto quota 18 milioni di unità vendute nel terzo trimestre 2012, superando l'iPhone 4S a quota 16,2 milioni. Il Galaxy ha quindi una quota vicina all'11% del mercato della telefonia mobile e a questo punto bisognerà vedere quali saranno i numeri che avrà iPhone 5, anche perché nel terzo trimestre, secondo molti esperti, le vendite del 4 sono state rallentate proprio dall'arrivo del nuovo modello di Apple. Abbiamo recentemente parlato 2024 di stampa 3D. Bene, notizia di questi giorni che anche l'esercito degli Stati Uniti sta costruendo le proprie stampanti 3D per produrre pezzi di ricambio dove servono. Le stampanti hanno un costo attualmente, quelle prodotte dall'esercito, di $700 e sono state progettate dal Future Warfare, quindi che si occupa della guerra del futuro, in Alabama. Ultima notizia, la Lega Calcio di Serie A ha aperto il proprio canale su YouTube, è un primo passo per un futuro che vedrà i produttori di contenuti sempre più protagonisti della distribuzione e della vendita direttamente al consumatore finale. Naturalmente queste sono solamente prove, test di un mercato che si creerà nel futuro. Questo è 2024, ci fermiamo per qualche minuto, ci sono le notizie di GR24, tra poco riprendiamo e parleremo di un argomento molto vasto e molto interessante, parleremo di automobili connesse alla rete internet, ma anche connesse tra di loro, di veicoli automatici. Chiamateci per le vostre domande e le vostre considerazioni al nostro numero verde 800 24 00 24. Tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter, cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, oggi è il 10 di novembre, grazie a Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica. Ciao Paolo, non t'ho salutato all'inizio perché ero preso da mille altre cose. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, se volete parlare con noi il nostro numero verde 800 24 00 24. In questa puntata, in questa seconda parte della nostra puntata, parliamo di auto connesse. Beh, potremmo immaginare che fra qualche anno una trasmissione come quella che state ascoltando potrebbe andare in onda addirittura da un'automobile, sfruttando l'infrastruttura dell'automobile. I nostri ospiti in questa seconda parte, per parlare di come l'auto si evolverà, forse già fra uno o due anni, ma anche fra 5, 6, 10 anni, Paola Carrea, che è responsabile della telematica in Magneti Marelli. Benvenuta a 2024. Grazie. Per telematica che cosa intendiamo? Che cosa fate? Telematica significa avere un'auto digitale. Abbiamo sentito prima le digital news, quindi avere un'auto anche lei digitale, che cioè in grado di essere localizzata attraverso un satellitare, il famoso satellitare, GPS satellitare. Adesso si sta lavorando anche al GLONASS e al Galileo, come forse alcuni dei nostri ascoltatori avranno sentito, ed è anche in grado di comunicare, quindi con una connettività la medesima che oggi abbiamo per i nostri telefoni cellulari. Sì, quindi potremmo dire che alcune cose ci sono già. Sì, assolutamente. Altre devono arrivare. Assolutamente. Diciamo, il bello forse deve ancora arrivare. Il bello deve ancora arrivare. Alcune volte dobbiamo ricordarci che il futuro era ieri, cioè tante cose, la tecnologia è disponibile e per certe applicazioni è già oggi sulle nostre strade, sì, e sulle nostre macchine. Il professor Alberto Broggi, collegato con noi via Skype, insegna informatica e soprattutto visione artificiale all'Università di Parma. Professore, benvenuto. Buongiorno. Senta professore, noi ci siamo conosciuti forse una decina di anni fa e lei mi raccontava cose che effettivamente 10 anni fa apparivano un po' strane. Adesso direi che sono un po' meno strane. Che cosa mi raccontava? Ma le raccontavo dei nostri esperimenti che 10 anni fa erano sicuramente all'inizio. E adesso stiamo invece provando veicoli che guidano da soli sulle strade, diciamo, di tutti i giorni. E ne parleremo nel corso di questa puntata per capire quando poi arriveranno questi veicoli, quali sono i vantaggi di questi veicoli. Paola, possiamo partiamo da quello che un po' c'è già oggi e quello che arriverà nel prossimo futuro. A proposito di auto connessa, noi possiamo dividere in due lo scenario di un'auto che si connette con un'infrastruttura che può essere internet, ma non è detto che sia solo internet, e invece una connessione forse un po' più complicata da realizzare, che è la connessione veicolo-veicolo, tra veicoli. Allora, quello che c'è già oggi e quello che sta arrivando nei prossimi, forse addirittura mesi. Allora, oggi noi abbiamo già più di 1 milione, per esempio, di veicoli in Italia, senza espanderci fuori dai nostri confini, che sono equipaggiati con una black box, proprio il concetto di black box, scatola nera, la medesima che troviamo anche sugli aerei. E questi veicoli possono erogare dei servizi di base, che sono servizi come l'antifurto, piuttosto che servizi assicurativi, no? Per cui addirittura molti dei clienti possono ottenere anche uno sconto dall'assicurazione se accettano, ai fini dell'antifrode, di installare questa scatola. Quindi la telematica esiste, oggi c'è. Ci sono poi veicoli, noi come Magneti Marelli abbiamo venduto più di 2 milioni di scatole telematiche che abbiamo chiamato Blue & Me sulle vetture della Fiat, quindi veicoli connessi non direttamente attraverso una scatola telematica installata dentro il veicolo, ma indirettamente, cioè attraverso un link Bluetooth, a cui oggi tutti siamo abbastanza familiari, che si collega poi con il nostro telefonino personale e dialogano con l'esterno o ci aiutano a dialogare meglio col telefono cellulare a bordo veicolo. Questo è un concetto che ti enfatizzo, è molto importante, perché quando tu prima hai parlato di internet sulla macchina, teniamo presente che una buona parte di vetture da molto breve, nell'imminente veramente, sarà ed in parte è già connessa a internet proprio attraverso i telefoni cellulari, cioè o gli smartphone, di cui peraltro abbiamo sentito parlare la crescita, no, costante mese dopo mese sul mercato. Perché il concetto del mirror link, sì, adesso lo spieghiamo, cui molti sono sicuramente familiari. Diciamo alcuni, perché non è che mirror link sia una tecnologia così diffusa. O alcuni sono familiari, sarà sicuramente, anche a detta di parecchi esperti, una grossa boom e una grossa diffusione avrà sulle automobili. Quindi, se capisco bene, la connettività di primo livello, diciamo così, di un'automobile, soprattutto in automobili di fascia medio-bassa, ma anche perché la tecnologia dell'automobile non è così veloce a trasformarsi, si otterrà tramite lo smartphone. Cioè io entro nella mia automobile con il mio smartphone, tramite questo standard di cui abbiamo parlato qualche mese fa, 2024, però poi la memoria non è così buona, allora magari molti ascoltatori non se lo ricordano più. Mirror Link è una tecnologia, uno standard che viene condiviso da molte case automobilistiche, da produttori di smartphone, potremmo dire oggi smart devices, come si dice tra gli esperti, questo nuovo modo di dire. Io entro nella mia automobile, il mio smartphone si collega con il sistema di infotainment dell'automobile, quindi le mappe che ho sul display dell'automobile sono in realtà le mappe del telefono. Di fatto sono le mappe del telefono, le informazioni sul traffico in tempo reale non mi arrivano sull'automobile, mi arrivano sul telefono e poi io le ho, quindi ho praticamente ripetute sul display della macchina. Io ho uno smart display, giusto per rimanere nell'era delle smart, no? Io ho uno smart display quasi stupido, a cui arrivano tutte le informazioni del telefono cellulare, dello smartphone. Quasi stupido, ma di fatto anche questa è una cosa che ritengo molto importante sviluppare, di fatto molto bene integrato sul veicolo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo smart display avrà comunque una sua intelligenza che impedirà, per esempio, ad un hacker di arrivarmi sulla macchina. Quindi questo è un altro capitolo. Ne parliamo perché importante. Giustamente alcuni ascoltatori in questi giorni mi dicevano: ma allora dovevamo mettere l'antivirus anche sull'automobile? Esatto. Questo è un problema. Non si potrebbe invece, allora, tecnicamente si può, però perché viene scelta questa strada e non mettere una SIM dati integrata dentro l'automobile per avere internet direttamente sull'automobile e allora, proprio collegata con la rete? Premesso che sulle macchine alto di gamma si avrà comunque anche la SIM dati, il modulo cellulare 3G o 4G proprio per avere internet sulla macchina direttamente, non attraverso lo smartphone, il problema di queste tecnologie sul veicolo è il modello di business. Cerco di essere chiara. Un utente che già si paga il suo abbonamento bimensile o mensile per avere internet a casa, internet sull'iPad e internet sull'iPhone e magari tutti gli SMS gratis e tutte le promozioni che sentiamo quotidianamente, perché dovrebbe decidere di farsi un altro abbonamento per avere qualcosa anche sulla macchina? E quindi diventa difficile chiedergli di spendere di più anche per ripagare un servizio, un business su questa macchina. Le auto con sistemi tipo Mirror Link. A proposito, Mirror Link è una, siamo sicuri che è una piattaforma condivisa da tutti? Ma ci sono parecchie piattaforme, non è ovviamente l'unica, ci sono dei consorzi cui prendono parte costruttori automobilistici e tier one, quindi fornitori di queste tecnologie e fornitori delle mappe e fornitori di applicativi tipo Google o altri, eccetera. Che magari sono tutti orientati più nel mondo di Linux o tutti, però sì, sono standard de facto che stanno venendo quando avanti. Quando arrivano le prime automobili con MirrorLink? Stanno arrivando, purtroppo non... Mesi o anni? Mesi. Mm. Allora, dovete sapere che Paola Carrea le cose le sa, ma non le può dire tutte, quindi magari lei sa che a marzo del prossimo anno arriva una tal macchina, ma non può dire perché ci sono dei segreti industriali. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Il nostro numero verde 800240024 per parlare con noi, per le vostre domande o le vostre considerazioni. Gli SMS al 349-238-6666. Potete utilizzare anche Twitter, il mio account, citandomi, io leggo le citazioni che vengono fatte, è _ Pagliarini, dove la E sta per Enrico, perché così mi chiamo. E potete utilizzare naturalmente anche la pagina di 2024 su Facebook. Professor Broggi, a proposito di veicoli automatici, noi vorremmo capire che cosa si sta sperimentando oggi, quindi qual è lo stato dell'arte, che cosa riescono a fare i veicoli oggi, e poi ci racconti anche un po' dell'esperienza che sta facendo Google, che mi sembra la più, almeno quella più pubblicizzata. Poi probabilmente le industrie automobilistiche stanno facendo la stessa cosa, ma non lo dicono. Ma effettivamente ci sono molte industrie automobilistiche che stanno lavorando su questo e lo stanno anche dicendo, soprattutto faccio riferimento alle aziende giapponesi, queste fanno molta pubblicità dei loro veicoli automatici, e anche le tedesche, le aziende tedesche hanno già dei prototipi che sono funzionanti. Per veicolo automatico innanzitutto intendo un veicolo che ha delle, diciamo un veicolo intelligente, che riesce a vedere, a capire che cosa ci sta intorno e a prendere decisioni. E, diciamo, prima di Google probabilmente è davvero quella più pubblicizzata. Hanno dei prototipi di veicoli intelligenti che adesso stanno girando sulle strade della California. Le famose strade della California. Ma questi veicoli ad oggi che cosa riescono a fare? Ma i veicoli di Google innanzitutto hanno un sensore direi molto molto preciso, riesce a percepire tutto quello che sta intorno al veicolo, di fronte, di dietro, di lato, fino a una distanza di 120 metri, quindi riesce a vedere tutto intorno, e questa è la prima parte, quindi la parte percettiva. Poi oltre a percepire quello che sta intorno, il veicolo deve anche essere in grado di capire la situazione, localizzare che di fronte c'è un altro veicolo, che c'è un pedone, la carreggiata che ha una determinata curvatura, e poi una volta che ha capito la pericolosità, prendere decisioni. Quindi decidere cosa deve fare, se ad esempio aumentare la velocità, diminuire la velocità, sterzare, e questo è il secondo livello, quindi il livello decisionale. E in più c'è un terzo livello che è il livello attuativo, cioè il veicolo effettivamente deve sterzare, frenare o accelerare, e quindi magari mantenere una traiettoria che ci permette di evitare l'ostacolo, oppure una traiettoria che permette di frenare prima di arrivare all'ostacolo. E adesso Google sta appunto testando questi sistemi su dei veicoli, penso che ne abbiano 20 di veicoli che stanno continuamente girando sulle strade della California e Nevada, e stanno appunto testando questa tecnologia basata su prima il riconoscimento della situazione stradale e poi la decisione. Attenzione che il riconoscimento della situazione stradale è basato su una mappa tremendamente dettagliata che hanno. Quindi a bordo hanno una mappa in cui è mappato ogni singolo marciapiede, ogni singolo paletto, ogni singolo gradino, buca che c'è sulla strada. E basandosi su questo riescono a localizzarsi e quindi a capire come muoversi. Senta, da quello che lei vede sul mercato e dagli studi che... lei professore sta facendo, secondo lei quando potremo vedere i primi veicoli affidabili che girano per le strade? Io so che sia il Giappone che la California, adesso non so se la California lo ha fatto più per pubblicità o perché concretamente si può già decidere quando permettere che questi veicoli circolino, però ci sono dei provvedimenti di legge, anche in Giappone stanno parlando almeno. Sì, adesso quantomeno in forma prototipale. Il primo è stato il Nevada, poi la California, Florida, ci sono un certo numero di stati che adesso hanno adottato delle regolamentazioni per cui è possibile far girare dei veicoli automatici sulle strade comuni. Il primo, dicevo, è stato la California e addirittura si sono inventati una targa particolare per questi veicoli. Insomma, direi che questo è il passo principale per poter davvero iniziare a testare. Prima diceva quando potrebbero vedersi questi veicoli sulle strade comuni, quando posso andarlo a comprare. È difficile da dire, chiaramente le previsioni sono tutte difficili, anche perché sono coinvolti attori diversi, non solo le case automobilistiche che effettivamente devono realizzare questi veicoli, ma anche diciamo i governi che devono in qualche modo legiferare per fare in modo che questi possano veramente muoversi sulle strade. E poi teniamo presente che questa cosa è un problema trasversale, cioè tocca non solo uno Stato, ma tanti Stati, tutto il mondo. Ognuno può avere le sue leggi, ognuno può avere soprattutto il suo pattern di traffico, cioè il modo con cui i veicoli si muovono. Questo di solito è una cosa che non viene sottolineata abbastanza, ma ogni singolo paese al mondo ha il suo modo di guidare, al suo modo di tenere la strada, al suo modo di interagire tra veicoli adiacenti. Sì. E chiaramente è difficile riuscire a progettare un sistema che effettivamente riesca ad adattarsi a tutte le situazioni. Possiamo fare una previsione? Cioè, stiamo parlando di cose che accadranno nei prossimi 2-3 anni, 5 anni, 10 anni, perché effettivamente 10 anni fa parlavamo di cose veramente nel futuro remoto. Sì, ma direi una previsione che di solito si fa in questo ambiente è che nel giro di pochi anni, e pochi anni vuol dire magari 5, 6, 7 anni, insomma diciamo una manciata di anni, si potrebbero avere veicoli in grado di guidare su strade particolari, come ad esempio su autostrade. Potremmo avere delle strade particolari strutturate appunto per questi, e alcuni veicoli potrebbero addirittura avere delle corsie preferenziali in cui si muovono. Per riuscire ad andare invece a movimentare veicoli automaticamente in città, beh, qui forse mi sbilancerai più su un 20 anni, di 15-20 anni. Sì, la città è una cosa un po' complicata. Magari poi le facciamo raccontare anche le esperienze che lei, professore, ha avuto con alcuni team in giro per il mondo. Io ricordo la DARPA Grand Challenge negli Stati Uniti, 2 edizioni, poi anche un'altra esperienza in Europa / Asia. Torniamo nel nostro studio, Paola Carrea di Magneti Marelli. Dunque Paola, abbiamo parlato della connettività, direi che è un tipo di connettività anche abbastanza semplice, quella che otterremo con il nostro smartphone, che senza far molte operazioni si connette con il sistema di informativo dell'automobile. A proposito di connessioni tra l'automobile e la rete, l'infrastruttura, arriverà entro 3 anni, se non sbaglio, sì, il famoso legge. E-call. Ci sono 2 leggi molto, molto importanti da tenere in considerazione che aiuteranno sicuramente l'exploitation, la vera diffusione della telematica. Sì. Sì, la diffusione della telematica. E sono l'e-call, e stiamo parlando di 2015, è una normativa europea oramai prossima veramente alla maturità, che prevede che tutte le macchine di nuova omologazione da fine 2015 siano equipaggiate con una scatola telematica che, a seguito di un incidente, di un crash severo, automaticamente chiami, mandi una chiamata di soccorso, sia che io abbia la macchina in fondo a un lago o piuttosto sia in una zona anche abbastanza oscura di alta montagna. Tramite rete cellulare. Tramite localizzazione particolarmente robusta, infatti qui entra in campo il Galileo, quindi ancora una volta il sistema di localizzazione europeo e non il GPS, solo il GPS americano, perché poi i sistemi comunque sono multicostellazioni, cioè i satelliti si aiutano l'uno con l'altro, diciamolo così, e quindi questo è molto importante e prevede la legge che entro 20 minuti dal crash debba arrivare soccorso, quindi con un impatto anche dal punto di vista organizzativo di chi deve poi provvedere al soccorso, i vigili del fuoco, il 118 piuttosto che polizia, che sarà, tra l'altro, eccetera, diciamo sarà 112 perché sarà il nuovo numero europeo lì 112, no? Sì. Non l'Enrico 112 ma lì, lì l'altra legge importantissima oltre all'ICOL che sta arrivando, più legata diciamo così ai diversi paesi piuttosto che ad una definizione unica, ad una standardizzazione europea, è invece l'ITOL e quindi il pagamento del pedaggio. Attraverso la scatola telematica è possibile pagare la tratta di strada che tu fai. Cioè, e qui uno, certo un italiano punto, potrebbe dire, ma noi ce l'abbiamo già, abbiamo il Telepass. Noi abbiamo il Telepass, eccellente, ha fatto scuola anche in tutto il resto d'Europa, ma richiede una pesante infrastrutturazione della strada. E invece sì, il pagamento del pedaggio basato sulla localizzazione e comunicazione non richiede un'infrastruttura, non ti richiede il casello, non ti richiede praticamente il sistema vede che tu passi per quella strada tu dal chilometro ad una certa ora entri in quella strada lì, in quel punto lì che è diventata una strada a pagamento, ad una certa ora esci da quella tratta lì che era a pagamento e quindi paghi per quanto sei stato lì. Sì. Tieni conto che questo ti apre un mondo molto dinamico su tutti questi discorsi qui delle tassazioni, dei pagamenti, eccetera. L'Olanda sta pensando addirittura di non far più pagare il bollo alle macchine, ma di far pagare la macchina in funzione di dove si trova, di quanto viene spostata, delle zone più a rischio ambientale o meno a rischio ambientale in cui viene utilizzata e così via. Quindi il concetto proprio dell'ecotassazione. Quindi ad esempio l'area C di Milano in un ecosistema. Perfetto. Dove tutte le auto sono connesse, ma guarda, non c'ha più senso. Di questi, no, non è che non cioè, abbia no, cioè, più senso, dico, cioè, senso non sarebbe più l'area C di Milano. Sì. Tutta l'Italia, tutta l'Europa può diventare un'area C di Milano. Poi ci piace o non ci sì, piace, certo. Però nell'era di internet, ci siamo detti, no? Nell'era di questa macchina digitale che poi un bel giorno sarà addirittura anche un'auto, almeno in certe zone, in certi contesti, automatica. E nell'era in cui la gente probabilmente sarà sempre più abituata o preferirà comprarsi chilometri piuttosto che comprarsi una macchina, avere la possibilità dinamicamente tu di capire se questi benedetti chilometri, dove li percorri, come li percorri, tutto, una delle tecnologie chiave per fare questa è proprio la telematica, ti dà una flessibilità enorme. Incredibile, certo. No? Quindi tutti anche quei modelli di car sharing di cui si sente parlare, no? Quando il professore parlava mi è venuto in mente un esercizio molto bello che abbiamo fatto anni fa in Fiat su un progetto che abbiamo chiamato Amica. Quindi noi abbiamo fatto prima uno studio in cui ci siamo resi conto che con 40.000 veicolini elettrici che siano anche in grado di muoversi automaticamente all'interno della città, tu potevi togliere tutte le macchine da Torino e sostituirle con questi 40.000 veicoli elettrici. La gente arriva col treno, arriva con i pullman, prende questa macchinina, la porta in ufficio, la lascia lì. La macchinina, quando è tutta concentrata in una zona, perché magari siamo andati tutti verso una zona per andare in ufficio in quella zona lì, e verso il centro non rimangono più macchine, da soli in automatico si sposta e va un po' più verso il centro, e tu non hai più problemi dei parcheggi, non hai più problemi dell'inquinamento, sì. Non hai più. Dunque, dico una cosa a un ascoltatore interessante che dice queste cose le avranno solo in pochi. Non è vero, stiamo proprio parlando di cose che nel giro di pochi anni saranno diffuse su tutte le automobili. Tra l'altro l'eCall è un sistema obbligatorio per legge per tutte le automobili, quindi questo è importante. Così come gli smartphone, fino a qualche tempo fa sembrava che li potessero avere in pochi perché costavano molti soldi, oggi sono degli smartphone da 100 euro e nei prossimi anni tutte le persone avranno uno smartphone. Ci risentiamo dopo la pubblicità. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024 dedicata ai veicoli connessi e anche ai veicoli automatici che vedremo sicuramente tra qualche anno. Alcuni ascoltatori, ma anche Paolo Corleoni che oggi si occupa della nostra parte tecnica, ci dice ma la privacy, ma questo è un tema sicuramente che andrà affrontato anche per i veicoli connessi, ma se ci pensiamo pochi si preoccupano della privacy tenendo in tasca un telefono cellulare con il quale oramai gli operatori potenzialmente possono sapere molte cose. Dopodiché ci sono delle norme che vietano l'uso di alcune informazioni, bisogna tutelare i consumatori e stare attenti, ma del resto ci sono le forze dell'ordine che si occupano anche di questo, esiste una polizia digitale che le informazioni che possono essere registrate non vengano utilizzate per fini illeciti. Non cambia quasi nulla con, anzi direi che con il cellulare in tasca già oggi si può sapere quasi tutto quello che si potrà sapere in futuro. Certo è che un veicolo connesso potrà dare molte informazioni, molte di più di quelle che dà oggi. Ad esempio, Paola, c'è un altro filone che a proposito di connessione tra veicolo e infrastruttura, che è quella che va sotto il nome di telediagnosi. Esatto, esatto. E io inviterei anche tutti a ricordarsi sempre l'impatto importantissimo sulla sicurezza, no? Di questo veicolo connesso. E quindi se noi lo vediamo, no, nella sua sfera rosa anziché nella sua sfera nera della black box, facciamo anche meno fatica a giustificare, no, o accettare la presenza di questa connettività. Sì, veicolo connesso significa anche telediagnosi, quindi possibilità di sapere o di essere assistito quando c'è qualche componente del veicolo che ha dei problemi. Mi si accende una spia sul quadro di bordo, qualcuno mi telefona e mi dice: guarda, stai tranquillo, non è nulla di grave, ti fisso l'appuntamento per la prossima settimana nell'officina XY e te lo ripariamo. Oppure fermati subito, è una cosa gravissima, ti veniamo a prendere, non entrare in panico, eccetera, eccetera. E questo ha un impatto importantissimo sia su quella che è l'accettabilità da parte del guidatore, no? Anche di questa tipologia di servizi, ma anche proprio la sua sicurezza intrinseca, perché non avrà problemi in caso di malfunzionamento. Per non parlare poi di tutto un ritorno importantissimo anche per i costruttori automobilistici in termini di campagne di richiamo, monitoraggio. Oggi va molto di moda il concetto di garanzia estesa. Capisci bene che se io ho la possibilità di capire se i componenti che sono a bordo di un veicolo hanno effettivamente dei problemi o non li hanno, potrò anche garantire o meno il cambio. E queste cose le vedremo quando? Queste cose, certi costruttori automobilistici su certi modelli alto di gamma cominciano già ad offrirle, ma stanno correndo per offrirle su tutti i modelli, e altri sono prossimi. Quindi qui stiamo parlando di un futuro che è oggi, non era ieri ma è oggi ormai. Professor Broggi, a proposito di veicoli automatici, che cosa è stato fatto fino ad oggi soprattutto in ambienti complessi? Perché un conto è far andare un veicolo in autostrada, già oggi ci sono dei sistemi di cruise control adattivo che quindi aiutano l'automobile a non tamponare, ad esempio. Quindi diciamo che in un ambiente come l'autostrada è abbastanza facile, no, perché comunque la complessità c'è, però è molto diverso in città dove ci sono un sacco di pericoli, un pedone che sbuca da una parte, un'auto che ci vuole superare, eccetera eccetera. Ma oggi che cosa è stato fatto? Prendiamo spunto anche da quello che il VisLab di Parma, che lei dirige, ha fatto e ha contribuito a fare con alcuni team in giro per il mondo. Noi abbiamo iniziato circa, direi anche più di una quindicina d'anni fa, e siamo partiti esattamente come diceva nel sistema più semplice, cioè in una strada semplice, diciamo amichevole e ben strutturata. E come ricordava prima della pubblicità, noi abbiamo iniziato a occuparci di questi temi prima in Italia, abbiamo fatto uno dei primi test reali, su strade reali, con meteo reali, quindi una macchina automatica che guidava, ha guidato per 2000 km sulle strade italiane nel 98, andiamo indietro parecchio. E poi abbiamo cercato sempre più di approcciare i problemi più difficili. Abbiamo partecipato a questa gara tra veicoli automatici che si è svolta negli Stati Uniti, la DARPA Grand Challenge nel 2005. E questa prevedeva che dei veicoli automatici si muovessero per 220 miglia in una struttura non strutturata, quindi all'interno del deserto, c'erano dei passi di montagna, quindi tutta fuori strada. E 2 anni dopo hanno organizzato, sempre il DARPA, ha organizzato un'altra gara tra veicoli automatici in città, quindi anche loro hanno incrementato il livello di difficoltà dell'ambiente, perché appunto è stato visto che nel 2005 dei veicoli ce l'hanno fatta, tra parentesi anche il nostro veicolo ce l'ha fatta, ad arrivarci in fondo, quindi siamo riusciti a completare questi 220 miglia di terreno completamente sconosciuto. Poi nel 2007 hanno organizzato questa nuova gara, dicevo, in città. Attenzione, era una città simulata, quindi c'era un po' di traffico, sì, ma i veicoli erano mossi, sì, da stuntmen, quindi c'erano persone che muovevano questi veicoli. E in questo caso un 7-8 veicoli ce l'hanno fatta a terminare questi 100 km di guida in città. E dopo quello il DARPA, che questo ente americano, si è fermato e non ha più organizzato nulla. Dopo siete andati in Cina, giusto? Sì, dopo nel 2010 abbiamo organizzato noi questa gara particolare, diciamo era una sfida, non è tanto una gara perché eravamo da soli. Abbiamo organizzato una sfida per cui abbiamo cercato di vedere se i nostri veicoli ce l'avrebbero fatta a partire da Parma e raggiungere Shanghai. Quindi sono circa 13.000 km da percorrere in modalità automatica. Attenzione che eravamo noi a bordo, quindi c'era qualcuno che sovrintendeva i sistemi nel caso fosse successo qualche cosa, in effetti è successo. Prima di finire nel burrone. Esatto, abbiamo dovuto riprendere in mano il veicolo alcune volte, ma questo è stato importantissimo perché ci ha dato la possibilità di affrontare situazioni che non avremmo affrontato se fossimo rimasti a Parma, sì, sì, in Italia. Oppure Senta, negli tra Stati poco Uniti. Volevo sentire Gianluca che ci telefona da Chieti, però prima volevo che in un minuto ci dicesse qual è la tecnologia che deve evolvere di più per arrivare al veicolo automatico che funzioni veramente in completa autonomia. E la visione, che cos'altro? Ma la tecnologia, se parliamo di tecnologia, sono tanti aspetti. Tecnologia forse, direi la tecnologia percettiva, cioè il modo con cui dobbiamo guardarci intorno, dobbiamo capire che cosa c'è intorno. Ci sono tante tecnologie, c'è la visione, quindi telecamere, laser, radar, ce ne sono tanti, anche nuove tecnologie che si stanno inventando in questo momento. Devo dire che Google utilizza una tecnologia, noi ne utilizziamo un'altra. Sono diverse, e diverse soprattutto anche come costo, cioè tecnologia laser è molto più costosa, visione molto meno costosa. Sì. Gianluca, buongiorno, benvenuto, l'ascoltiamo. Buongiorno a lei, volevo chiedere, ma in tutto questo universo il piacere di guidare dove va a finire? Ah certo, beh, allora, in alcuni ambiti il piacere di guidare non esiste, perché le garantisco che quando io faccio l'A1 alle 11 di sera a volte mi verrebbe voglia di reggere magari qualche cosa, non dico un libro, ma magari il mio tablet. Professore, ma l'ipotesi è poi che si possa disattivare, se uno vuole fare le curve in montagna. Diciamo che pensiamo a quando dobbiamo guidare per lavoro, non è sicuramente piacevole. È vero che quando guido la macchina la domenica in montagna o al mare è tutta un'altra cosa, questo è vero, sì. Però possiamo pensare di staccarlo e quindi certe situazioni, magari una bassa percentuale della sua vita, la va a guidare in modo automatico e guidare in modo manuale, invece per il resto guidare in modo automatico. Oh, devo dire che quello che dice Gianluca è corretto, perché anche nella visione dei veicoli elettrici una parte del piacere di sentire il motore che gira con i cilindri che vanno su e giù, insomma, si perde, però non è che possiamo fermare l'evoluzione per il nostro piacere. Rimarranno magari alcune cose, oppure ci dovremmo divertire in un altro modo. Poi un giorno faremo anche una puntata sui veicoli elettrici, visto che molti ascoltatori ce la chiedono. Ci fermiamo per un minuto, notizie che arrivano da strade e autostrade, dove ci sono dei veicoli tradizionali e poco intelligenti, e a quel punto devono essere gli automobilisti intelligenti. anche se sono mica tanti, devo dire che a volte faccio questa considerazione: dobbiamo digitalizzare il paese, si dice spesso che dobbiamo alfabetizzare digitalmente gli italiani, a volte mi chiedo ma se non siamo ancora riusciti a farli guidare per bene. Comunque, a parte queste polemiche, riprendiamo tra un minuto, parleremo di connettività veicolo-veicolo. 2024. I nostri ascoltatori sono diffusi un po' in tutto il mondo. Adesso via Twitter mi scrive un nostro ascoltatore e dice: oggi vi ascolto dalla Colombia in macchina via web collegando l'iPhone alla radio col Bluetooth. Bravissimo, fantastico. Però devo dire che sono ancora pochi i consumatori che riescono a fare una cosa di questo tipo. La tecnologia, parlando di automobili connesse, dovrà farci fare questo in modo molto più semplice. Quindi questa è un po' la sfida dei prossimi anni. Detto di automobili che si connettono al nostro smartphone e poi naturalmente di conseguenza ad internet, di automobili che si connettono e già oggi accade alle assicurazioni, che forniscono informazioni alle assicurazioni e forniranno informazioni alle case automobilistiche in modo che possono fare diagnosi del nostro veicolo, c'è un altro aspetto molto importante, forse determinante per poi arrivare anche al veicolo automatico, che è la comunicazione veicolo-veicolo. Allora Paola, innanzitutto ti faccio una domanda molto semplice: stiamo parlando di connessioni che avvengono sempre via rete cellulare o no, anche con altre tecnologie? No, per la comunicazione veicolo-veicolo si sta lavorando a degli standard basati su Wi-Fi, quindi stiamo parlando di una comunicazione non lungo raggio ma di una comunicazione corto raggio. Anche questo, visto che ti piace sempre sapere una cosa di dopodomani o di domani o di ieri, ci tengo a dire che oggi le macchine della Formula 1 comunicano già tra di loro con un sistema particolare basato anche lui su Wi-Fi. Tra l'altro l'abbiamo sviluppato noi come Magneti Marelli con la nostra Motorsport, e questo a certificare che non ci sono limiti tecnologici, cioè quando due macchine della Formula 1 che vanno a 320 km all'ora riescono a parlare tra di loro, direi non dobbiamo porci problema, ma se va da 130, ma se l'altro va... Cosa si dicono tra di loro? Si dicono, per esempio, quando piove molto forte e c'è una curva repentina e lì la velocità è altissima, che c'è magari una macchina ferma davanti. Ah, okay. Parecchi incidenti, purtroppo, in quel contesto lì, in questi ultimi Gran Premio, sono stati evitati proprio grazie a questa comunicazione veicolo-veicolo. Ciò detto, quando parliamo di Formula 1 parliamo di una bella pista o di una pista molto complicata, ma di un ambiente comunque protetto, conosciuto, determinato, chiuso, dedicato, eccetera. Più difficile è parlare di comunicazione veicolo-veicolo al di fuori di questo, dell'ambiente, quindi sì, in un viale qualunque di Milano piuttosto che in un corso qualunque di Torino. Ci si sta lavorando, si stanno facendo degli esercizi anche importanti. A Torino abbiamo digitalizzato una strada nelle vicinanze del Politecnico e stiamo sperimentando proprio veicoli con la comunicazione veicolo-veicolo. Ci terrei a dire, visto che abbiamo sentito affascinanti racconti sulla guida automatica, sicuramente la comunicazione veicolo-veicolo sarà il sensore, no? Prima abbiamo parlato di laser, di telecamere, eccetera, sarà il sensore che aiuterà molto anche a eliminare i problemi non tanto di mancati allarmi, ma di falsi allarmi che oggi abbiamo quando mettiamo sulle strade i veicoli a guida automatica. Non voglio rubare la scena al professore, sì, sì, sì, ma è solo in maniera un po' così. Comunque, costruttiva. Per diciamo, vista dalla prospettiva del pilota, una delle conseguenze di una buona comunicazione veicolo-veicolo è che non si intampona più. Non si tampona più, ma per esempio si ci dice: guarda che c'è aquaplaning, guarda che tra qualche metro, tra qualche chilometro c'è un banco di nebbia, guarda che la macchina che arriva dall'altra parte dice tra un chilometro, due chilometri c'è un mega incidente. Insomma, sì, sì, sì, è un aiuto importantissimo. Professore, abbiamo gli ultimi minuti. Questa tecnologia, cioè della comunicazione tra veicolo e veicolo, è la condizione certamente non sufficiente ma necessaria perché si facciano i veicoli automatici, immagino, o no? Cioè, o basta, o il veicolo automatico può andare anche da solo? No, no, assolutamente. La comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura direi che è un prerequisito, perché il veicolo intelligente da solo può essere intelligente sicuramente, può localizzare gli ostacoli, però è chiaro che non riesce, come dicevamo prima, come diceva prima Paola, non riesce a vedere dietro la collina o dietro la curva, non c'è nessuna possibilità. E invece, avendo una comunicazione, questo si può fare sicuramente. Bene, io ringrazio il professor Broggi per essere stato collegato con noi via Skype oggi. Professore, mi dica però un'ultima cosa, che cosa state facendo adesso al Vislab? Cioè, avete una gara, avete una sperimentazione? Perché so che, tra l'altro, lei gira spesso in giro per il mondo, molto Stati Uniti, perché penso che molto succeda lì. Sì, in effetti sì, ma stiamo adesso organizzando un nuovo veicolo, lo stiamo progettando in questo istante, dovrebbe essere operativo verso l'inizio dell'anno prossimo, inizio 2013. Sarà un veicolo completamente diverso da quelli che abbiamo fatto finora e avrà dei sensori di basso costo e tremendamente integrati. Quindi vogliamo proprio mostrare che ormai siamo proprio vicini ad avere la possibilità di avere su ogni veicolo questa tecnologia che permette di guidarlo in modo automatico. Professore, grazie, buon lavoro, ci tenga informati su questo nuovo veicolo. Assolutamente, ma mi veniva in mente prima quando c'era l'ascoltatore che aveva parlato del piacere di guida, avevo sentito una frase fenomenale una volta che diceva che un giorno, probabilmente tra 15-20 anni, qualcuno di noi pagherà un biglietto per poter andare in un parco a tema per poter guidare una macchina. È probabile. Grazie, a presto e buon lavoro, professore. Arrivederci. Paola, chiudiamo con... abbiamo un minuto per dire una cosa a cui abbiamo accennato, effettivamente un ascoltatore ci sollecita. Allora, visto che le auto si connettono ad internet, uno potrebbe pensare, dobbiamo mettere l'antivirus, cioè i problemi di sicurezza sono problemi che si stanno studiando. Bisogna lavorare proprio per evitare che il virus entri sulla macchina. E quindi stiamo lavorando addirittura con delle metodologie che arrivano dal militare, proprio in partnership con altri, ovviamente, che ne sanno più di noi al riguardo, proprio per essere certi che le informazioni che arrivano sulla macchina siano informazioni che non vanno a danneggiare o a compromettere il software che oggi già gira sulla macchina. Quindi è importantissimo proteggere il mondo del veicolo. Oggi, nella fase zero a cui siamo, visto che le scatole telematiche non sono ancora tutte, o il telefonino tantomeno, non è direttamente collegato, proprio anche fisicamente collegato con la rete di bordo del veicolo che è per eccellenza protetta, non abbiamo questo rischio. Ma quando arriverà l'e-call e quindi avremo qualcosa connesso direttamente con gli airbag, connesso, sarà importantissimo proteggere. Gli americani sono più fortunati di noi e chiamano tutto questo grosso lavoro che si ha da fare security. Noi non abbiamo la parola, noi diciamo sicurezza sia nei termini della safety sia nei termini della security. Però è un tema importantissimo. E comunque, insomma, così tranquillizziamo gli ascoltatori, ci si sta lavorando. Assolutamente. Probabilmente anche un freno all'evoluzione, proprio perché bisogna essere sicuri che tutto funzioni adeguatamente. Grazie a Paola Carrea, responsabile della telematica in Magneti e Marelli. Buon lavoro, a presto. Grazie. Io ringrazio Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica, Anita Panizza e Nadia Zammitti che ci hanno aiutato in redazione. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre 2024. Scriveteci per le vostre considerazioni, per i vostri suggerimenti. Questa puntata sarà disponibile anche in podcast tra poco sul sito internet di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento tra 7 giorni. 2024.